1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, anzi ormai 7:22 minuti, dai, risuonino le note di Rule Britannia, l'inno dell'imperialismo britannico, perché sì, qui siamo nella rassegna stampa, nello spazio consueto della lettura dei giornali, ma non possiamo non far finta di quello che sta succedendo, un momento storico, se vi siete svegliati adesso, è ormai ufficiale, ha vinto la Brexit per quel che riguarda il referendum in Gran Bretagna. Saluto Carmelo Lauricella che mi porta un'acqua in diretta, grazie Carmelo, sei fonte di gioia oltre che di soddisfazione per la mia gola. E allora, ha vinto la Brexit. Battutona. Ha vinto la Brexit, questo è ormai chiaro, è ufficiale, lo ha detto la BBC, ripeto, non c'è la comunicazione, quella, come dire, in giacca e cravatta da parte del funzionario che dalla Town Hall di Manchester annuncerà la vittoria della Brexit, ma la BBC, tutti i grandi TV hanno detto è ormai ufficiale. E allora cosa succederà? Beh, adesso questo lo analizzeremo anche dalle 8:15 con Oscar Giannino, ne stiamo già parlando. Dalle 6:15, intanto succede che, basta vedere le agenzie, esultano i leader di altri paesi come Geert Wilders in Olanda, che ha proposto subito un referendum per l'uscita dell'Olanda. E poi ancora, vedete qui, in Francia una dei Le Pen, Marine Le Pen, prima era stata l'altra, la nipote, come si chiama, Marion credo, questa è Marine Le Pen, vittoria della libertà, ora vogliamo la Frexit, cioè l'uscita della Francia. Insomma, diciamo che già si sono mossi, ovviamente crollano le borse, la sterlina ai minimi dell'85, la borsa di Londra al collasso, la borsa di Tokyo che crolla, a Seoul in Gran Bretagna in Corea del Sud hanno già convocato il governo d'urgenza, una seduta del governo per affrontare la situazione, crollano i futures a Wall Street, insomma i primi riflessi sui mercati finanziari, come si immaginava, già ci sono. Ma dicevamo, i giornali, dai, andiamo a sfogliarli perché è interessante parlare anche di altro, Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Per la verità, oggi venerdì 24 giugno, c'è da dire che tutte le paginate sulla Brexit, a questo punto, dobbiamo chiamarla così, potete anche saltarle a pie pari. Perché? Perché chiaramente quando ieri i primi sondaggi sono diffusi, sondaggi o exit poll, ovviamente non ufficiali ma privati, si pensava che avrebbe vinto il Remain, e quindi ecco che i titoli di prima pagina dei giornali sono le 24 ore, exit poll e mercati dicono no a Brexit, questo è il titolo della prima pagina, in realtà non è andata così, o sfida all'ultimo voto sull'Europa, più prudente il Corriere della Sera, mentre altri giornali, il giornale la mette così, metà Europa vuole andarsene, Inghilterra spaccata, oppure Brexit per le borse ha vinto il no. Questo è il titolo di prima pagina del Messaggero, è andata diversamente. Queste alcune delle aperture sulla Brexit, mentre vi segnalo La Stampa che ha un'apertura con un'intervista a Matteo Renzi, PD raccoglie la sfida, il tema del PD c'è anche su Repubblica, basta fiducia, l'ultimatum dei ribelli PD come titolo di prima pagina. Invece il Fatto Quotidiano mette De Benedetti in guai a Renzi, inchiesta per insider trading in prima pagina. E voglio proprio partire da qui, perché se veniamo alle questioni italiane c'è da registrare che tutti i giornali hanno questa notizia, l'inchiesta popolare Renzi sentito come teste. È successo il 20 maggio scorso a proposito di banche. Il presidente del Consiglio, racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 15 del Corriere della Sera, è stato interrogato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulle speculazioni in borsa legate alle banche popolari. Il procuratore Pignatone lo ha ascoltato come persona informata dei fatti nell'ambito dell'indagine avviata dopo la denuncia presentata dal presidente della Consob Vegas, che anche in Parlamento aveva sottolineato come l'analisi della dinamica delle quotazioni nel periodo antecedente il 16 gennaio 2015, giorno in cui il governo aveva approvato il decreto per privatizzare le popolari, evidenziava un'operatività potenzialmente anomala per alcuni soggetti. Ci sono accertamenti in particolare sul fondo Algebris, Davide Serra a Londra, considerato molto vicino amico di Renzi, ma anche su acquisti compiuti dall'imprenditore Carlo De Benedetti, finito nel mirino della Consob per una plusvalenza da circa 600.000 euro. E ora la Procura di Roma ha ascoltato Matteo Renzi, tutto secretato ovviamente come interrogatorio, ma l'interrogatorio è avvenuto il 20 maggio scorso, si viene a sapere ora un mese più tardi, e tutti i giornali raccontano di questo. A proposito di banche, su Repubblica invece vi segnalo la storia dell'ex private banker Roberto Rizzi, colui che per Banca Popolare di Vicenza concordava i tassi dei prestiti concessi ai soci clienti, racconta Franco Vanni a pagina 14 una stretta di mano al ristorante fra l'amministratore delegato della banca e l'imprenditore. Così nacevano le operazioni cosiddette baciate, con cui la Popolare di Vicenza si è ricapitalizzata in modo irregolare fino a polverizzare oltre 6 miliardi di euro di valori delle azioni. Andavamo in qualche bel ristorante, racconta Rizzi, in città o fuori Vicenza, o direttamente dal cliente. Spesso c'erano sia Sorato sia Giustini, cioè gli alti dirigenti di Banca Popolare, e col socio parlavano chiaro: noi ti concediamo un finanziamento a determinate condizioni e tu con quei soldi compri azioni della banca. Tutto qui, poche parole, coi piatti in tavola. Pagavamo il conto e dal giorno dopo il meccanismo era in moto. Parla così Roberto Rizzi, vicentino, classe 1955, per 22 anni ha curato come private banker un centinaio di grandi soci della Popolare con un portafoglio titoli da 300 milioni di euro, e dice appunto che il meccanismo era questo. Sono uscito da funzionario di quarto livello, e dice, gli accordi li prendevano il direttore generale Sorato e il suo vice Giustini. Io non potevo disubbidire. E ristoranti di lusso, interessi di favore, così convincevamo i grandi clienti, e così la Banca Popolare di Vicenza, almeno racconta Repubblica, è franata. Va bene, diciamo che continuiamo tra poco la lettura dei giornali, ma anche un grande sguardo alle agenzie dopo la vittoria della Brexit. Ecco, c'è la reazione anche di Matteo Salvini, per esempio, leader della Lega. Grazie UK e viva il coraggio dei liberi cittadini, così ha twittato Salvini. Cuore, testa, orgoglio, battono bugie, minacce, ricatti. Grazie UK, ora tocca a noi. Quindi anche Salvini parla così. Comunque, vogliamo mantenere il premio per l'articolo che mi fa pensare della giornata? Eccolo qua. Se siete alla guida, mani sul volante, per ciò che Andrea Pasqualetto ci racconta, pagina 23 del Corriere della Sera. È la storia di Munifer, operaio macedone a Belluno fino a un po' di tempo fa e che ora in Siria fa il tesoriere dell'ISIS. Secondo i PM di Vicenza, Munifer Karamaleski si radicalizza quando ha 26 anni a Belluno per fare l'operaio, e ora non è un qualsiasi combattente, si occupa di vigilanza del Ghanima, cioè il deposito del bottino di guerra dello Stato Islamico. Questo precisa la Procura Antiterrorismo di Venezia, impegnata in un incontro internazionale all'Aia tra inquirenti italiani, sloveni e bosniaci che stanno concludendo inchieste sui reclutatori di Foreign Fighters. Eccolo qua. L'ex operaio macedone in Italia, trapiantato a Palughetto di Chies dal Pago, in provincia di Belluno, e ora in Siria a fare il tesoriere dell'ISIS. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Alessandro Milan, il gioiello più prezioso della corona, Ti aspetto al mio compleanno! È già passato! God save the Queen! È già passato, regina! È già passato, sua maestà! Come bisogna rivolgersi, sua maestà! È già passato! Beh, va bene, il prossimo, i 91 anni, sua maestà! Va bene, la ringrazio intanto! Anzi, vi ringrazio, come si dà del voi, come devo fare? Va bene, alle 7:36 minuti mai la regina fu più... puntuale nella giornata in cui ormai è ufficiale la Brexit ha vinto. Queste sono le notizie che da ormai le 6 del mattino si sono sparse in giro per il mondo, gettando tra l'altro nel panico la borsa, perché crolla la sterlina, crolla del 9% la borsa di Londra, crolla dell'8% la borsa di Francoforte, crolla del 5% il mercato dei futures americani. In pratica mancano i conteggi di 6 circoscrizioni, ma la Brexit è arrivata a 16.910.000 voti contro i 15.777.000 per il Remain. Insomma, il distacco non è più colmabile, la Brexit ha vinto e ci sono le reazioni. Mi ha detto Salvini esulta, Wilders in Olanda dice ora noi, la Le Pen in Francia adesso toccherà la Francia. Beh, c'è anche da dire che voi dite, ma cosa c'entra? Anch'io la penso così, ma notizia di poco fa, la direzione del PD è rinviata per la Brexit. Così, l'ANSA dà questa comunicazione. La direzione del PD prevista oggi pomeriggio è rinviata. Beh, la diamo come collegamento e mi permette di andare a saltare in prima pagina della Stampa, dove Matteo Renzi campeggia perché rilascia un'intervista al direttore Maurizio Molinari, o meglio non è un'intervista al direttore, l'intervista la fa Federico Geremicca, ma è un viaggio che Renzi fa a Palazzo Chigi dentro il suo ufficio. Eccolo, spesso mi tocca passarci le giornate, guardate qui invece com'è in disordine. Matteo Renzi col direttore Molinari e con Federico Geremicca fa una sorta di così intervista passeggiata per Palazzo Chigi. E cosa dice? In due pagine, pagina 2 e 3. Beh, intanto dice riguardo al PD, alla minoranza del partito, se vogliono che il PD torni a una stagione dei caminetti tra capi corrente, beh, resteranno delusi. Se lo vogliono, hanno una via dritta, trovarsi un nuovo segretario. Il congresso non è lontano, possono provarci. Poi riguarda le amministrative, dice Renzi, è una vittoria chiara del 5 Stelle, evidente, innegabile, netta. Ma il voto non è stato solo questo. In 7-800 comuni abbiamo vinto noi, negli altri non pochi ha vinto il centrodestra, che dunque c'è. Il dato politico però è che ha perso la Lega, mentre noi l'abbiamo spuntata a Milano, la battaglia simbolo. Torna però, e non può eludere il tema, dibattito nel PD, Renzi. E allora... eccolo qua, è 10 anni che il PD discute di se stesso, della forma partito, con chi lo vuole solido e chi lo vuole liquido. Io non ho toccato nulla di quel che ho trovato, ho fatto campagna elettorale ovunque, sono tutte le domeniche alla scuola del partito. Il problema è qual è l'alternativa al modello organizzativo attuale? Parlano di me come se mi fossi autoproclamato segretario o capo del governo, ignorando che ho vinto le primarie e che è stato il mio partito a chiedermi di fare il presidente del Consiglio. Renzi ne ha anche per D'Alema. È stato appena rieletto, anche col nostro aiuto, presidente della federazione che unisce tutte le fondazioni del socialismo europeo. Ecco, spero che a Bruxelles i nostri amici socialisti non si siano accorti del fatto che in piena campagna elettorale lui faceva telefonate invitando intellettuali e uomini di cultura a dare una mano alla candidata che a Roma si opponeva al candidato del suo partito. Lasciamo stare. Così Renzi, che però su se stesso, in questa lunga intervista rilasciata alla Stampa, dice: io una riflessione su di me e su come sono percepito dalla gente la devo fare. Il fatto non mi sconvolge, non mi preoccupa che uno che governa si prenda gli insulti. Una volta Obama mi ha detto: fino a che sei al governo ti giudicano sulla base delle loro aspettative, ma quando ci sono le elezioni ti valutano sul piano delle alternative. Sì, vedo un rischio di personalizzazione, ma da parte delle opposizioni contro di me. Ammetto che se guardassi alcune TV e leggessi alcuni giornali, nemmeno io voterei per me, tanto sono le critiche. Insomma, Renzi, il riassunto di questa lunga intervista rilasciata alla stampa. La guerra nel PD continua, rimandata perché, insomma, posso dire una cosa, è una battuta, rimandata a direzione del PD e quei teatrini per ore. Viva la Brexit! Vedete che un effetto c'è, insomma, di tutto questo. Comunque, insomma, staremo a vedere. Comunque, vediamo sulla questione politica. Più che altro Renzi dovrebbe rendersi conto che a Palazzo Madama, cioè al Senato, c'è qualche problemuccio. Come racconta Barbara Fiammeri, una politica, giornata politica di ieri, è successo un fatto che dovrebbe far suonare un campanello d'allarme a Renzi. Un provvedimento politico innocuo che nell'ultima seduta che precede il weekend vede il gruppo dei verdiniani di ala votare insieme a una parte dei centristi l'emendamento del forzista Caliendo al DDL sulle misure contro il terrorismo, e tutto ciò manda sotto la maggioranza. Il segnale, come scrive il Sole 24 Ore a pagina 14, è stato lanciato. La maggioranza Palazzo Madama traballa. Proprio nel momento in cui Renzi in qualche modo ha preso la distanza dai verdiniani e visti mal di pancia dei centristi, ecco che i verdiniani votano con Forza Italia e mandano sotto la maggioranza. Questo al Senato. E questo segnale politico è un segnale che forse bisogna tenere in buona considerazione. Intanto Standard & Poor's ha ribadito addio alla tripla A come valutazione per la Gran Bretagna. È probabile un downgrade ed è probabile che la Gran Bretagna perda la tripla A. Questo lo dice Moritz Kremer, che è responsabile dei rating per Standard & Poor's, ovviamente. Mentre dalla Germania, o meglio il leader del PPL Europarlamento, il tedesco Weber, dice: rispettiamo e deploriamo la decisione degli elettori britannici, cioè la rispettiamo ma la deploriamo anche. Insomma, la Germania e comunque il leader del PPE all'Europarlamento reagisce così, il tedesco Manfred Weber. Questo per quel che riguarda gli aggiornamenti sulla Brexit. Vi segnalo invece, perché è politica questa anche, la RAI. Che cosa cambia in RAI? Presentati nuovi palinsesti. Tornano sulla RAI Michele Santoro con la docu-fiction. Tutti i giornali lo raccontano, qui sono davanti a Repubblica, per esempio, RAI, l'ultima rivoluzione, cambia un format su tre, tornano Benigni e Santoro. Dunque torna Michele Santoro in RAI. Torna anche Roberto Benigni, vabbè, non è una grande novità. Torna Giuliano Ferrara, farà l'autore del programma di Buttafuoco e Sechi. E poi torna Gad Lerner con Islam Italia su Rai 3. Vabbè, Libero è un po' duro, come al solito. Il carrello dei bolliti Rai è il titolo di prima pagina. E ci sono Ferrara, Santoro, Veltroni, perché anche lui effettivamente farà un programma come autore televisivo, e Gad Lerner, per l'appunto è il secondo giorno che Gad Lerner si trova in prima pagina sul Libero per il ritorno in Rai. Alla Rai servono il carrello dei bolliti, questo almeno Libero. Non è tutto, insomma, non ci sarà più Ballarò, dovrebbe esserci Gianluca Semprini da Sky a condurre un talk di prima serata su Rai 3, dovrebbe arrivare anche Piff sulla Rai. Vabbè, queste le novità. Che dire? Dobbiamo fermarci un attimo? Rientriamo subito dopo. Tutto ciò premesso, traffico! Ciao Alessandro, andrebbe così. If three witches could watch three watches, which witch would watch which watch? Ciao! Ah, beh, bello lo scioglilingua. Grazie, cara ascoltatrice. Ciao anche a te, un abbraccio. con i vostri scioglilingua, e anche questo in inglese. È la giornata in cui l'inglese si sentirà un po' ovunque. Sentiamo un po' la BBC. Ovviamente noi siamo in continua diretta per parlare di questa Brexit. La Brexit. Ospiti che parlano e commentano i risultati di questo, che ormai un referendum che ha visto determinare la vittoria di coloro che in Gran Bretagna dicono che la Gran Bretagna debba uscire dall'Unione Europea. È un successo che in qualche modo anche clamoroso rispetto alle previsioni fino alla vigilia. Si diceva no, vincerà il Remain di poco, invece ha vinto la Brexit. Cosa succederà ora? Beh, intanto i mercati finanziari sono semi crollati un po' ovunque nel mondo, ma ci sono anche già varie reazioni, da Salvini in Italia, da Le Pen in Francia, Wilders in Olanda, a dire adesso tocca a noi e proporremo se al governo di uscire. Cameron invece, che è colui che ha indetto il referendum consultivo, secondo Rumors, un'agenzia, mentre diceva fino a ieri non mi dimetto, secondo Rumors starebbe valutando le dimissioni. Comunque torniamo, mentre continueremo a raccontare questa vicenda, torniamo a raccontare quello che succede in Italia. È il giorno in cui Virginia Raggi, eletta sindaco a Roma, inizia in qualche modo a fare le prime dichiarazioni pubbliche. Vabbè, ci sono state anche le lacrime, torneranno sulla questione delle lacrime delle donne, la prima volta che si è affacciata dal Campidoglio e con un po' di emozione che l'ha fatta scivolare un po' nelle lacrime. Le lacrime di Raggi, no al codice etico per gli assessori. Ecco, questa è già una notizia, già un piccolo dietrofront. Non ci saranno la firma del cosiddetto codice etico. Ricordate che 3 giorni fa avevamo ospite Paolo Berdini, assessore in pectore all'urbanistica, che era un po' perplesso per questo contratto da 150.000 euro di penale da firmare in caso di discostamento dalla linea 5 Stelle. Pare che non ci sarà più da firmare, almeno per gli assessori esterni, questo contratto. E poi Virginia Raggi, questa idealmente la vorrei abbracciare di gioia quando le hanno fatto la domanda più stupida del mondo. È vero, le domande non sono mai stupide, ma la chiamiamo sindaco o sindaca? E le ha detto: guardate, non credo che ai romani questa cosa importi molto, chiamatemi Virginia. Brava! Ce l'abbiamo gli applausi? Brava! 96 minuti di applausi. E non è una questione di genere, care femminucce. Se no, io pretendo di essere chiamato giornalista. Allora, quando mi chiamerete giornalista, io chiamerò sindaca Virginia Raggi. Va bene, dai, adesso mi massacreranno appena esco dallo studio tutte le colleghe, lo so già, andiamo avanti lo stesso. Allora, lasciamo Roma e torniamo su Repubblica, perché c'è una vicenda che riguarda il cardinal Bertone che rispunta, e un finanziamento, o meglio una donazione da 700.000 euro e un'indagine. Fabio Tonacci lo racconta su Repubblica, pagina 15. Bertone e il costruttore degli yacht fantasma si indaga sulle donazioni da 700.000 euro. È una vicenda che riguarda anche Banca Etruria. Quel che resta di uno dei più sciagurati investimenti di Banca Etruria arrugginisce in un cantiere dismesso del porto di Civitavecchia, il guscio ferroso dello yacht più grande del mondo, che in realtà non ha mai visto la luce. Finirlo ora costerebbe più che smantellarlo, e i giorni in cui l'ex segretario di Stato Bertone benediva la chiglia lunga 127 metri con grande cerimonia sono lontani. I bonifici però che l'alto prelato ha ottenuto dalla Privilege, la società che voleva costruire questo yacht, circa 700.000 euro in 4 anni sotto forma di donazione a enti terzi, invece quelli ci sono ancora, e 2 procure della Repubblica, Arezzo e Civitavecchia, stanno lavorando su questa storia. I magistrati vogliono ricostruire la rete di amicizie di alto livello dell'imprenditore della Privilege, Mario Lavia, 72 anni, indagato per bancarotta a Civitavecchia, perché tra i suoi contatti ci sono generali dei carabinieri, generali della finanza, governatori, sottosegretari e Tarcisio Bertone. Quale servigio garantì il segretario di Stato Vaticano? La benedizione della chiglia nel 2008 pare un po' poco a fronte delle consistenti donazioni successive. Ha avuto un qualche ruolo nel convincere le banche della bontà del progetto del mega yacht? Insomma, queste sono le domande che la Procura e anche Repubblica si fa sulla vicenda di Tarcisio Bertone. Oh, se la Gran Bretagna oggi prende tutta la scena politica estera, beh, c'è anche la Spagna però, dove si vota, e si vota dopo che da sei mesi non c'è il governo, e come racconta Omero Chai, a pagina 8 di Repubblica, spunta un dossier sui leader dell'opposizione, spunta uno scandalo di spie in Spagna. Non poteva mancare alla vigilia di questo replay delle elezioni spagnole lo scandalo del Partito Popolare di Mariano Rajoy. C'è una serie di intercettazioni audio rivelate da un quotidiano online, Publico.es, che hanno svelato una trama segreta organizzata dal Ministero degli Interni per fabbricare dossier con l'obiettivo di screditare pubblicamente i più importanti dirigenti del nazionalismo catalano. Negli audio si ascolta il ministro Díaz discutere con il responsabile ufficio antifrodi di Barcellona su come organizzare e dirigere un gruppo di agenti di polizia segreti e anonimi con la missione di indagare i leader nazionalisti, le loro famiglie, confezionare accuse, insomma fare una guerra sporca per indebolirli politicamente. Anche questo succede in Spagna, non solo in Spagna, ma insomma tutto il mondo e paese. A 3 giorni dalle elezioni in Spagna c'è questa polemica. Le polemiche ci sono, mentre leggo ancora le agenzie sulla Brexit, ce n'è una dalla Casa Bianca che dice poco per la verità. Obama è informato sull'esito del voto, dopodiché vedremo se Obama si pronuncerà in giornata. Le polemiche sulla decisione della Cassazione di dare la stepchild adoption per una coppia di donne, cioè l'adozione della figlia del partner anche in una coppia dello stesso sesso. Ebbene, su Repubblica e sulla Stampa ci sono le due interviste alle due donne protagoniste. Repubblica intervista Ornella o Maria, non lo so, o viceversa. E la Stampa intervista Maria o viceversa. Ornella è sulla Stampa e Maria è su Repubblica. Insomma, comunque la gioia di queste mamme che dicono nostra figlia capisce più dei politici, siamo le sue due mamme. Arcobaleno, dice per esempio una, come vi chiama? Mamme, dice, siete le mie mamme. E cosa gli avete detto? Sì, aveva 2 anni e mezzo e gli abbiamo risposto alla sua curiosità di capire perché tutti avevano una mamma e un papà e lei due mamme. E cosa le avete detto? Che noi ci eravamo innamorate, l'abbiamo tanto desiderata, al punto di andare in Spagna, dove un uomo ha donato un semino. E così è nata lei. Vabbè, intervistate sia sulla Stampa che Repubblica. Siamo alla Carta Costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo sul Giornale, dove per un'intera pagina si racconta che è arrivata la prima piscina speciale, dove non può entrare Peter Bescapè, dove non può entrare Lorenzo Nespoli, dove non può entrare un macellaio di Milano, un ristoratore di Ostuni, un postino di Forlimpopoli, ma solo cani, la piscina solo per cani, solo i cani, la piscina solo per cani, ma chi se ne frega.